Con Alberto Bogo, regista del film Terror Takeaway, in uscita in sala il 24 ottobre come film evento di Halloween con Movie Day. Alberto, ben trovato. Ciao a tutti, molto piacere. Ci presenti il tuo film? Terror Takeaway è un film, come ho definito io, politico. Qualcuno ha definito il primo horror marxista, perché è un film, è il primo film horror che affronta un po' il tema della crisi del lavoro in Italia, sotto forma di horror comedy, slasher comedy, per cui è un film abbastanza anomalo per il panorama italiano. Anche per il modo in cui viene distribuito, di cui non vi posso già parlare se volete. Sì, ci arriveremo, insomma. Alberto, come nasce tutto? Nasce perché io nel 2015 ho fatto uscire il mio primo film in America per la Troma Entertainment, che è la più famosa casa di produzione al mondo per i B-movies. Dopo questa esperienza un po' folle, nata anche un po' per caso, ho voluto provare a fare qualcosa di più serio, di più strutturato, e ho cercato in 3 anni di trovare un produttore. In realtà non l'ho trovato per il film che volevo fare, e così la produttrice, una delle produttrici del mio film, che è Sonia Passarelli, poi mi ha convinto a scrivere nel 2017 questa sceneggiatura, traendola da un cortometraggio che avevo girato in Super 8 vicino a Londra. Secondo titolo, sempre horror, immagino sia una passione. Allora, l'horror sì, ma è una passione che dico sempre arrivata dopo il cinema serio, perché io sono partito dal cinema impegnato. Fin da piccolo amavo molto, diciamo, i registi anni 70, un po' da Milos Forman al primo Spielberg, De Palma, Scorsese, insomma, grande cinema americano, della New Wave americana degli anni 70. Per cui un cinema più d'autore. Sì. E l'horror è venuto dopo, perché io avevo paura, insomma, fin da adolescente dell'horror, per cui sono riuscito a vederli solo dopo i 20 anni. La chiave comedy legata all'orrore, come ti è venuta? Allora, già il mio primo film era un horror rock comedy, parlo di Extreme Jukebox, che ho scritto con Andrea Leonetti. In realtà il secondo mi ha un po' chiamato la commedia, perché chi mi conosce dice che ce l'ho un po' dentro questa cosa di scrivere in commedia, per cui credo che siano più commedie che hanno un vestito horror le mie, che non il contrario. Poi la forma che do l'horror, perché mi piace molto, è molto divertente lavorare con gli effetti speciali, e si ride molto in realtà nel fare horror, per cui credo che quello sia quello il motivo. Per l'esperienza americana hai detto di una produzione specializzata in B-movie, ecco, quali sono i tuoi riferimenti estetici per l'horror? Maestro per me assoluto, l'ho sempre detto, è John Carpenter, perché è stato, diciamo, un regista a suo modo politico, che è riuscito a fare dei film di genere, spaziando comunque oltre all'horror, perché poi i suoi erano anche western fondamentalmente, però mettendo dentro alle trame dei sottotesti molto, molto interessanti, che leggevano la società di quel tempo, ecco. E io ho preso ispirazione da quel modo lì, più che dal suo stile, che secondo me è inimitabile, e lui è inarrivabile, ecco. Ecco, nel tuo film quanto la crisi a cui facevi riferimento è sottotesto e quanto invece è presente in maniera visibile? Un po' costruito attorno al film su questa cosa, nel senso che ovviamente, essendo un horror, è difficile parlare dei massimi sistemi, però Certo. quello che ti posso dire è che esce la rabbia, esce in modo molto sincero nel film. Questo la critica lo sta notando, lo sta apprezzando molto, perché comunque un film fatto di stomaco da uno che comunque ha perso 2 volte il lavoro, è rimasto, si è preso i sussidi, per cui credo che questo emerga in modo molto sincero. È un film rabbioso, scritto di stomaco, in un momento in cui ero molto incazzato, e spero che qualcuno ci si riveda in questa cosa. Ecco, arriviamo alla distribuzione Movie Day e Halloween. Raccontaci un po' questa formula. Intanto ringrazio Lucio Basadonne, che è produttore e insieme a Movie Day è creatore di questa campagna, diciamo, abbastanza inusuale. E abbiamo scelto Halloween perché io sono un fanatico di Halloween. piaceva come data, ma soprattutto perché l'idea è di fare queste proiezioni che non sono proiezioni, ma sono dei veri e propri eventi, cioè succedono delle cose durante il film, ovvero ci sarà la proiezione di un documentario di 15 minuti sul film, poi ci sarà questa cosa del Bogo Vision, cioè una specie di sistema per sentire gli odori nel film, grazie a una, per chi preacquisterà i biglietti un po' di giorni prima della proiezione, e poi ci saranno gli incontri al buio, che per me era un'idea per far tornare le persone in sala, nel senso, piuttosto che stare a casa da soli o da sole, andate a conoscervi in una sala, mal che vada, se il film fa cagare, incontrate l'anima gemella. E allora ho pensato che era una bella idea sociale, diciamo, ecco, per evitare che le persone si guardassero i film solo in streaming e a casa, e anche per giustificare il costo di un biglietto che secondo me è molto spesso è tanto e offre poco. In chiusura, Alberto, ci lasci anche dei riferimenti internet per saperne di più? Assolutamente. Allora, potete intanto andare a spulciare la pagina www.terrortakeaway.com, che tra l'altro è piena di contenuti estremamente divertenti. Se no, su movieday.it, scritto movieday con la Y finale.it, per chi non è proprio un inglesista, andate a cercare Terror Takeaway, che è uno dei due film promosso da Movie Day, e lì trovate tutte le date delle anteprime e del film che esce il 31 ottobre, dove potete preacquistare i biglietti. Fatelo prima, perché se non raggiungiamo il quorum in determinate città, il film non parte, per cui mi affido a voi. Allora, ricordiamo l'uscita in sala di Terror Takeaway, sì, il 24 ottobre come film evento di Halloween insieme a Movie Day. Un saluto e un ringraziamento al regista Alberto Bogo. Alberto, un saluto, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille ancora a voi per questo spazio. Un abbraccio a tutti da Genova.